Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, ritrovate, sei tornata finalmente alla base. Ti sono anche mancata, ieri, anche sì, tu, no, però ieri ci siamo sentiti, dai. Assolutamente, è stata peraltro ieri una gran bella trasmissione, insomma una versione un po' inedita del nostro programma, con una qua al posto e un'altra inviata, laddove le notizie naturalmente accadono e si verificano, e quindi vi abbiamo raccontato in direttamente. Diretta. Esatto. Allora, per quello che riguarda questa giornata, è giovedì, io ho la mia scuola di risparmio, abbiamo Investire Informati, ed è importante fare la puntata di questa settimana perché proprio in questi giorni ci siamo preoccupati un po' per l'Italia. Si è tornato di nuovo a parlare di rischio paese, di rischio politico per questa questione delle elezioni anticipate, e quindi monitoreremo un po' soprattutto l'Italia questa mattina con il nostro esperto, ma faremo il consueto giro anche per i mercati finanziari internazionali, perché bisogna sempre diversificare anche le informazioni che diamo. Certo, allora scuola di risparmio, ma con Deborah abbiamo deciso di dedicare la prima parte della trasmissione a un argomento molto complesso che ci scuote, ci fa male, ci colpisce proprio come un pugno nello stomaco, ci lascia attoniti. Parliamo di mamme che uccidono i loro bambini. Liberarsi dal proprio bambino buttandolo via proprio come se fosse uno straccio, oppure uccidendolo con ferocia o sottoponendolo anche a delle sofferenze atroci, è un gesto considerato moralmente inspiegabile e imperdonabile. Figlicidio. Non è una cosa che non si può accettare, non si può neanche pensare, purtroppo succede, e non è raro, perché in meno di un mese due casi per certi versi simili, almeno nella modalità con cui le due mamme hanno messo fine alla vita dei loro bambini. Abbiamo pensato allora oggi che, e lo sottolineo subito tenendo rigorosamente sullo sfondo la vicenda, potesse essere utile dare un po' voce tra di noi a quel senso di orrore, smarrimento, ma anche pietà profonda che declinato in modo e modalità diverse ciascuno di noi prova dentro di sé. Allora abbiamo chiesto a due esperti, amici di Cuore Denari, che voi conoscete bene, di aiutarci un po' a decodificare quel garbuglio di sensazioni, di emozioni con cui facciamo molta fatica a confrontarci. Allora saluto il professor Claudio Mencacci, che è direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell'ospedale Fate Bene Fratelli Sacco di Milano. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Abbiamo Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, ciao Deborah, buongiorno, ciao, a tutti. Buongiorno. Allora, vi leggo subito un messaggio di WhatsApp che è arrivato proprio un secondo fa. Ho perso la mia bambina all'ottavo mese di gravidanza, non sapete cosa penso ogni volta che sento una cosa così. Allora, Alberto, non è possibile, non si riesce a pensare, tantomeno ad accettare, che una donna, una madre, possa arrivare a tanto. Ed è uno strazio che ci destabilizza, che non riusciamo, non vogliamo accettare, perché sentiamo contro natura, ma anche perché probabilmente ci sentiamo traditi da quella figura che, proprio perché è in grado di dare la vita, non possiamo accettare che un giorno decida di toglierla. Sì, è così. L'evoluzione ha proprio stabilito in tutte le specie viventi, in quasi tutte le specie viventi, che esiste una sorta di legge del cucciolo, cioè ogni vita nuova che nasce può permanere nell'esistenza, può evolvere, può diventare grande esclusivamente se ha a disposizione un fornitore di cura, che è generalmente la mamma, che si fa carico dell'accudimento e di tutti i bisogni. E quindi c'è nella prima fase della vita, predisposto dall'evoluzione, proprio una dimensione, da una parte di dipendenza del cucciolo dalla sua mamma, perché questo gli garantisce la sopravvivenza, e dall'altra parte c'è questo misto di grande dedizione, spesso anche grande fatica, ma complessivamente tutto incorniciato in una relazione che è di affetto, di amore, di cura, dove la mamma si fa carico, e tutti noi siamo diventati grandi grazie a questo meccanismo che da una parte è biologicamente definito, è proprio dentro alla teoria dell'attaccamento, che è il risvolto psicologico di un dato neurobiologico di cui tutte le specie viventi sono dotate. Professor Mencacci, di fronte però a tragedie di violenza così inaudita, imprevista e impulsiva, si tira subito in causa la follia. il raptus. È possibile, professor Mencacci, che tutto succeda così in pochi istanti, o questo è l'epilogo di una storia, di una condizione di disagio profondo che è stata nascosta, non metabolizzata, non diagnosticata, non intercettata? Ecco, ecco, allora quello che dobbiamo dire è che ci troviamo di fronte a una condizione, intanto dobbiamo chiamarla di neonaticità, perché quando avviene entro le prime 24 ore è un neonaticidio che è diverso dall'infanticidio. E questo, anche dal punto di vista della legge, è un qualcosa che prevede delle importanti attenuanti proprio per la condizione legata a questo tipo di trauma. Allora, questo si tratta frequentemente di donne che hanno gravi disagi psichici e la condizione di quanto apposta clamore, orrore, ma nel contempo dobbiamo avere anche uno spazio per comprendere che cosa è accaduto in questa donna, è il tema della negazione completa della gravidanza. Che, detta così, le leggi di natura sono fatte proprio perché sono contraddette, la natura non è così determinata, e anche la legge dell'attaccamento proprio prevedono che l'attaccamento non esista o che vi siano delle condizioni psichiche come posta la negazione completa della gravidanza, che non è rarissima. Noi la consideriamo un caso ogni 2500 parti. Professore, però... ecco, cioè, e quindi è un disturbo della donna, in questo caso, negare la sua gravidanza, raccontare appunto che quelle, perché è impossibile non, che una donna non avverta i mutamenti che ci sono nel suo corpo e nella sua mente, nel suo corpo, perché il bambino poi si muove. Ma io mi chiedo, le persone intorno, senza per questo dare colpa a una rete familiare, amicale, io non voglio giudicare nessuno, un compagno, è possibile che non si renda conto che la moglie o la compagna è in gravidanza e cancella, scotomizza quest'idea? È possibile che non si riescano a cogliere dei segnali? Ma ecco, evidentemente manca una cultura, anche una sensibilità, un'educazione emotiva, come la chiamerebbe Alberto, per renderci capaci? Stiamo parlando di una condizione psichica che per noi in psichiatria si chiama una condizione di dissociazione, e che è stata ampiamente dimostrata che è legata al fatto che ci sono donne che negano completamente la gravidanza, e quindi anche i movimenti, quelli che sono movimenti consideriamo inevitabili, sono percepiti come movimenti intestinali, hanno frequentemente anche piccole perdite durante i 9 mesi che vengono, come dire, gestite come flussi mestruali. Come dire, ci sono casi come questi, nella mia esperienza tra l'altro ne ho avuto modo di vedere un'altra situazione, e che vanno compresi. Che vanno compresi, e questo sarà compito della magistratura approfondire se questa mancata consapevolezza era così evidente oppure lo era solo parzialmente. Chi è vicino ovviamente è spesso in un ambiente in cui le relazioni sono un po' distanti o lontane, certo. E questo può far sì che non ce ne si accorga, ecco, questo, ci sono altri casi, questo che voglio dire, l'orrore che ci ha generato questa condizione, per fortuna raro, e ribadisco, un caso ogni 2500 parti, quindi da un punto di vista statistico è estremamente raro, sto parlando della negazione, non del neonaticidio, per fortuna, è una condizione che è studiata, ecco. Allora, noi ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade, poi ritorniamo di nuovo insieme. Vi aspetto 800 24 00 24, se volete intervenire, come state facendo su WhatsApp al 349 238 6666. A tra poco. e denari. Siamo tornati insieme in linea con il professor Claudio Mencacci, direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell'Ospedale Fate Bene Fratelli Sacco di Milano, e Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta, con cui stiamo partendo dal fatto di cronaca che ci ha scosso profondamente, della mamma che si è liberata del suo bambino appena nato. Stiamo cercando un po' di capire, un po' di dare un po' voce alle emozioni che proviamo, alle sensazioni che fatti così violenti, inauditi, scatenano in noi, ma anche di capire fino a quanto e che cosa può succedere nella testa, nella mente di una donna. Professor Mencacci, quando succede che una mamma uccide il suo bambino, che sia neonato, che sia bambino di pochi anni, tutto questo ha un eco molto più forte, ci colpisce molto di più che se non a commetterlo fosse il padre. Non voglio fare delle distinzioni, cioè non voglio perdermi in queste distinzioni, ma emotivamente siamo più scossi, e Alberto un po' ha già accennato a questo. Ma voi che i casi li studiate anche con il rigore delle neuroscienze, ecco, ci sono delle differenze tra uomo e donna in queste dinamiche? Le differenze sono enormi, perché in linea quasi sempre il neonaticidio e l'infanticidio è opera delle madri, mentre i padri uccidono quando i figli sono più adulti, sono più grandi, uccidono più per situazioni di conflitto, di vendetta, di distruzione della famiglia. Frequentemente invece i casi di infanticidio, di neonaticidio, sono legati a delle grosse situazioni di sofferenza psichica o di abbandono o di situazioni di abuso, di violenza, di traumi, quindi hanno un maggiore coinvolgimento di natura emotiva. Quello del padre invece è più di natura violenta e conflittuale. Alberto, volevo un commento tuo, soprattutto perché notizie come queste ci, consapevolmente o inconsapevolmente, ci mettono un po' nella condizione di fare i conti con il nostro bisogno di accudimento, di sicurezza, di una tana, no? Che ci protegga. Certo, e tutto questo è un po' rappresentato nell'immaginario collettivo dalla mamma. Sì, io direi che probabilmente proprio il primo messaggio che vi è arrivato in trasmissione e che avete condiviso, cioè quello di una donna che ha vissuto il lutto intensissimo e dolorosissimo della perdita del proprio bambino all'ottavo mese di gravidanza, è probabilmente quel genere di attitudine e di modalità con cui le persone si avvicinano a una notizia di questo tipo, cioè identificandosi. Io non farei mai una cosa del genere, questo è il pensiero di tutti, e se poi qualcuno ha vissuto un lutto nella zona della propria maternità o genitorialità, ecco che dice: com'è possibile che una donna faccia una cosa così tremenda, considerato che io questa cosa l'ho subita, non l'ho scelta, e fatico a sopravvivere quel dolore che ne rimane. In tutto questo però noi stiamo usando un meccanismo di identificazione, cioè come se noi fossimo al posto di quella persona, cosa avremmo fatto noi. Il tema invece è quello che diceva il professor Mencacci, cioè è fondamentale utilizzare il concetto del comprendere, o provare almeno a comprendere, cosa sta succedendo nella mente della persona che compie un atto così terribile, perché quello che succede è che dentro a quella mente c'è proprio lo stato dissociativo, un funzionamento non integrato, dove moltissime cose succedono e vengono poi agite senza avere a disposizione la risorsa del pensiero, cioè di qualcosa che può costruire significati intorno a quello che si sta sentendo e che muove le azioni così criminali o così tremende. Voglio leggervi il messaggio di Fernanda che arriva via WhatsApp. Immagino il buco nero nell'anima di quelle donne, mi chiedo come sia possibile che nessuno si sia accorto del loro disagio. Mi fanno pena perché immagino anche l'inferno che sarà il resto della loro vita. Sono rimasta inorridita dal suo gesto, ma ancora di più quando ho letto degli insulti e delle aggressioni alla donna quando è stata arrestata, perché lei può essere impazzita, ma la gente che la condanna si è dimostrata davvero gretta. Professor Mencacci, io so che lei deve scappare, ma prima di lasciarla, si parla sempre negli ultimi anni con più attenzione di depressione postpartum. È una fragilità della donna dopo la gravidanza, che prima era banalizzata e su cui invece adesso ci sono dati e conoscenze che possono metterci in grado di anche dare dei messaggi di prevenzione. Quali sono quelli che si sente di dare? Prima di tutto, anche grazie a trasmissioni come questa, finalmente oggi esiste una rete migliore sul la depressione nel perinatale, cioè sia prima, durante la gravidanza, che dopo. E le possibilità è che il personale sanitario è molto più formato a individuare quei segni di ansia, di tristezza e anche di valutazione nella donna che ha delle familiarità precedenti per depressione e ansia, sia lei che nella sua famiglia, per monitorarla durante il percorso della gravidanza e nel postpartum. Il tema però in questa occasione è un altro aspetto, non della depressione, ma è legato proprio alla negazione della gravidanza. La negazione della gravidanza, nessuno se ne accorge, perché la persona che è fondamentalmente sconnessa dalla sua coscienza, ma anche dalla sua memoria, dalla sua identità, della sua anche rappresentazione corporea. Ed è questo che è importante, possa non mettere tutto nello stesso crogiuolo, perché le persone con depressione apposta nel perinatale è molto più facile poterle individuare, aiutarle e anche ad uscire, diciamo, un po' dal mito e dell'ideale della mamma che deve essere sicuramente sempre buona e accudente. Non sempre può essere così, e in questo senso poterle accompagnare alla gravidanza e poi alla crescita della propria prole. Nel caso invece della negazione della gravidanza, tutto viene operato perché dalla persona stessa, che non sente, non riconosce, proprio perché c'è una sconnessione nell'integrazione della coscienza, quindi nega completamente. Queste cose le vediamo anche per altri tipi di patologia, in questo caso per la gravidanza. Professor Mencacci, io la ringrazio. Grazie per quello che sta facendo per sensibilizzare e per dare questo messaggio. Si può, non sempre si può arrivare in tempo. Ecco, bisogna, ci sono, però c'è una rete, Segnalo Onda, da anni si occupa di depressione, anche ma di depressione al femminile. Mettiamo naturalmente il link alla pagina. Professor Mencacci, grazie. Grazie a voi e quando volete con molta gioia. Grazie. Saluto a Nicoletta e a tutti, e al dottore e a tutti gli ascoltatori. Grazie professor Mencacci. Alberto, ci sono però delle, noi vogliamo di questo vogliamo parlare. Quando noi parliamo di una persona che compie un gesto di questo tipo, ci concentriamo sulla persona, forse quasi, no, diciamo, io non l'avrei mai fatto, ma intorno a questa persona c'è un microcosmo. Ci sono compagni, ci sono figli, che poi dovranno fare i conti con questo genitore per metabolizzare questa grande tragedia. Ci sono gli amici, ci sono i colleghi. Sì, il concetto di rete è fondamentale, soprattutto in un passaggio così critico e importante come quello della gravidanza. Leggendo i giornali un po' nelle ultime ore, abbiamo come la percezione che molte persone si fossero avvicinate anche a questa mamma, identificando il suo stato di gravidanza, che poi chiaramente veniva negato dentro a quel problema di fuga dal principio di realtà che spiegava bene il professor Mencacci. Ecco, è fondamentale probabilmente che il mondo intorno, quando guarda, osserva la percezione che qualcosa non va, attivi una richiesta di aiuto nel caso in cui la persona non sia in grado, e questo spesso serve anche per le donne che hanno una depressione postpartum. Come dicevi tu, sono le persone vicine che possono fare moltissimo nel momento in cui la persona non riesce ad attivare quella richiesta di aiuto e quel bisogno profondo che ha non riesce a comunicarlo. Molti dei nostri ascoltatori ci stanno scrivendo, come aveva fatto Fernanda, che sono inorriditi dalle reazioni sui social. Ne parleremo naturalmente insieme ad Alberto Pellai subito dopo il GR, prima della scuola di risparmio. Quanto dipendiamo dalla tecnologia nel lavoro e nella vita di tutti i giorni? Sono Enrico Pagliarini e ogni settimana 2024 intervisto i protagonisti dell'innovazione tecnologica in Italia e nel mondo. Tutto quello che devi sapere sui social network, la pubblicità digitale, le nuove app e molto altro. 2024 è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22, domenica alle 13.30 e in edizione podcast con tutte le interviste in versione integrale. State ascoltando un programma offerto da Investi con Anima, il gruppo leader del risparmio gestito italiano. Cuore e denari. Siamo tornati insieme prima Eccoci di qua. Cambiare decisamente argomento e tornare a investire in formati, e quindi al nostro appuntamento del giovedì. Stiamo riflettendo insieme ad Alberto Pellai, abbiamo avuto il professor Mencacci sul fatto di cronaca, pur tenendolo molto lontano. Non entriamo naturalmente nel merito, ma stiamo un po' provando a entrare nella testa della mamma, ma anche soprattutto cerchiamo di decodificare quelle sensazioni, quelle emozioni, timori, paure che proviamo ogni volta che leggiamo, e purtroppo capitano queste cose, di queste violenze. Alberto, sicuramente la gravidanza è un momento molto delicato in cui ci sono delle grandi trasformazioni nella pancia, nella testa della mamma, e io direi anche a livello di coppia. La nostra è una trasmissione che vuole, come dici tu, accendere dei pensieri, delle riflessioni, confrontarci, ma vogliamo dare anche là dove è possibile delle indicazioni di prevenzione, di promozione della salute, del benessere fisico e psichico. Sì, la gravidanza è veramente un passaggio di profonda trasformazione nella vita di ciascuno di noi. Succedono tantissime cose in quei 9 mesi e quelle cose ci preparano poi a dei cambiamenti che resteranno con noi per sempre, perché quando nasce un figlio poi effettivamente è per sempre. Dobbiamo adattarci col corpo, con la mente, emotivamente e psicologicamente, dobbiamo dotarci di nuove competenze e non possiamo fare tutto questo lavoro da soli, per cui proprio come dici tu, lavorare anche nella logica della prevenzione, riconoscendo che oltre a tutto il bello che è correlato a questa trasformazione di vita ci sono un sacco di fattori che internamente producono ansia, magari senso di inadeguatezza o di paura, e tutto questo non ce lo possiamo risolvere semplicemente parlando di noi stessi a noi stessi, abbiamo proprio bisogno di confrontarci con gli operatori, ma poi nella rete dei servizi esistono tantissime offerte che spesso vengono denominate sotto l'etichetta di percorso nascita, è lì che una coppia dovrebbe rivolgersi, dentro al consultorio familiare, e lì soprattutto se una donna può fare proprio generare il primo contatto in autonomia, e quello che scoprirà è che ci sono tantissimi operatori deputati alla prevenzione e al sostegno, disponibili al parlare, al dialogo e anche a condividere conoscenze e competenze, e soprattutto poi c'è la rete delle altre mamme in attesa, che forse è l'aiuto più grande che una donna può ricevere, cioè entrare in una sorta di gruppo di autoaiuto che è lì presente, proprio naturalmente, spontaneamente, stanno tutte attraversando il medesimo passaggio, la medesima trasformazione, e quindi ci si può sostenere a vicenda. Allora Giovanni ci scrive: mi fate arrabbiare, sia voi che in TV tutti i giornalisti, perché non dite che si può lasciare il neonato in ospedale, e se le donne fossero sensibilizzate ed educate a questo, forse ci sarebbe qualche infanticidio in meno, ma nessuno lo dice. Non credo che nessuno lo dica, ma noi abbiamo pensato di sottolinearlo, grazie anche al messaggio di Giovanni, perché si fa presto a dire madre, ma poi ci sono tante condizioni diverse, tante cose che si agitano e si animano intorno alla mamma, dentro alla mamma, e si fa presto a dire madre, anche il titolo del libro della nostra collega Valentina Furlanetto, che abbiamo chiamato. Ciao Valentina. Ciao, ciao Nicoletta, buongiorno. Non potevi mancare in questa puntata. No, tra l'altro voglio sottolineare che proprio questo aspetto del lasciare il bimbo in ospedale, lei l'ha sottolineato in un pezzo che ha fatto ieri per il giornale radio, vero Valentina? Sì, stavo per dirle, infatti, che non l'abbiamo detto. Ti ha rubato la battuta, vabbè. No, non ho potuto fermarla. No, è importante, in effetti ha ragione l'ascoltatore, è importante, però l'abbiamo fatto, ribadire che esiste una legge che prevede l'anonimato per il parto e la possibilità, nel caso una donna non volesse riconoscere il figlio, in tutta sicurezza, in completo anonimato, di lasciarlo in ospedale e di permettergli di avere una nuova vita con dei genitori adottivi, e questo è molto importante, chiaramente. Valentina, nel tuo libro raccogli tante storie di, sì, di, no, di mamme. Sì, il libro, che... come hai detto tu, citando il titolo, vuole sottolineare il fatto che in questa società italiana, soprattutto dove la famiglia sembra sempre al centro della narrazione, si fa presto poi a dire madre, c'è un isolamento delle famiglie e delle donne in particolare, che non è un isolamento naturale. Le donne immigrate che io intervisto tutti i giorni per i nostri approfondimenti, per i radiogiornali, raccontano di società in cui magari meno avanzate dal punto di vista economico, ma in cui la donna, quando è in una situazione particolare come quella della gravidanza, ha intorno a sé tutta una serie di persone, familiari, ecco, e persone che la accudiscono. E questo, nelle storie che io racconto nel libro Si fa presto a dire madre, è evidenziato, la solitudine soprattutto di una condizione drammatica, molto bella, ma che una donna, con la quale una donna deve imparare a fare i conti, perché certo, è comunque una trasformazione importante. Anche perché, ritorno, ma proprio non per approfondire il tema che poi che abbiamo accennato, a tutti i commenti, a tutte le parole, anche a tutti i messaggi che sono arrivati via WhatsApp sul caso da cui siamo partiti. Noi siamo molto bravi, e soprattutto è un fenomeno tipico di questi anni, a commentare i fatti, a dare dei giudizi anche molto violenti, molto aggressivi. Ci piace scrivere e forse ci piace un po' meno fare. Alberto, sì, da Valentina, tutte e due, una battuta prima di lasciare la linea. No, mi veniva in mente, in effetti i commenti su Facebook erano davvero atroci, non so se è più terribile il gesto o più terribili i commenti di gente che augurava la morte per dissanguamento a questa donna. E volevo citare una storia del mio libro che purtroppo si ripete ogni estate, quindi lo dico anche perché non vorrei che questa estate rileggerla nelle cronache, di una bambina purtroppo lasciata sul seggiolino dell'auto e purtroppo dalla distrazione della madre, chiaramente, e dalle incombenze di tutti i giorni di questa madre, che ha avuto un vuoto di memoria. Succede purtroppo spesso ogni anno. Anche in quel caso era stata travolta da commenti terribili, condanne, minacce. È chiaro che in quel caso c'è stato appunto un vuoto di memoria, si potrebbe aggirare questo terribile evento che capita appunto ogni anno con il caldo, con dei sensori sui seggiolini che però le case automobilistiche non mettono in atto, e comunque anche come nel caso di cronaca di queste ore, di questi giorni, l'empatia verso gli esseri umani dovrebbe coinvolgere anche l'empatia verso un essere umano che ha compiuto un gesto terribile e che muore in quel momento insieme al bambino emotivamente. Sì. Alberto, prima di salutarci, una considerazione rapida finale e poi ti saluto. Che questo messaggio legato all'empatia e alla compassione, empatire con, sia comunque un dovere per tutte le persone che non si trovano coinvolte in un fatto così e lo guardano da fuori. E direi anche che purtroppo Facebook e i social sono diventati uno sfogatoio e usiamo eventi come questi, li commentiamo come se fossero la partita di calcio persa dalla squadra avversaria, la nostra. Ecco, sono eventi tremendi della vita, vanno trattati con una serietà e una delicatezza che bisogna imparare a riconquistare. Allora, io ringrazio Alberto Pellai, ringrazio Valentina Furlanetto, ringrazio voi. Alcuni di voi ci hanno scritto dei messaggi molto duri a commento della vicenda, ma devo dire che la maggior parte degli ascoltatori su WhatsApp ha sottolineato una sorta di pietà nei confronti di strazio, esatto. Doloroso nei confronti di questa tragedia che segna una donna, il bambino non c'è più, ma segna anche una famiglia intera e segna anche un po' la società, perché noi ne facciamo parte. E quindi io ti lascio la parola, Deborah, cambiamo sì. Decisamente argomento. Assolutamente, veramente il volo pindarico è estremo ma necessario, perché oggi è giovedì. Allora, come nelle attese e come tante volte abbiamo probabilmente pronosticato, ma non solo noi, nei mesi passati, da qualche giorno il termometro dei mercati finanziari è posizionato sull'Italia. Dopo Brexit, dopo l'elezione di Donald Trump e da inizio 2017 le attese sui principali appuntamenti elettorali europei, l'Olanda, l'Austria e poi le presidenziali francesi, è arrivata anche la vicenda politica italiana, molto incerta, confusa, ad attirare le attenzioni degli investitori che hanno cominciato a trasferire di nuovo, come se non ci fosse bastato quello che è successo in passato, a trasferire appunto le loro preoccupazioni sulla stabilità o instabilità politica del nostro paese. E questo è un tema. Sullo sfondo naturalmente ci sono poi, e rimangono sempre tali, le tematiche finanziarie internazionali che sono piuttosto rilevanti. Ci sono le solite banche centrali attese al varco, ci sono i record della borsa americana che piacciono a tanti, ma naturalmente costituiscono anche fattore di preoccupazione, perché se la borsa americana si ferma magari qualche dolore a qualcuno lo fa attraversare. Ci sono tante aree emergenti che raccontano buone notizie, altre un po' meno. C'è stato il taglio di rating sulla Cina, il primo da una trentina d'anni, che pure ha un po' scosso la comunità finanziaria, e ci sono delle buone occasioni di investimento in giro per il mondo che però bisogna conoscere bene e quindi bisogna guardarle con cautela. E allora anche oggi non mancano gli spunti per arricchire la nostra rubrica del giovedì. Investire informati. Guarda, poi peraltro per tutti gli ascoltatori che si lamentano che stamattina l'aggiornamento di borsa non l'abbiamo fatto, ma siamo volute partire subito con il tema molto delicato della parte di cuore, vi accontento adesso. E vi accontento in tutti i sensi, perché oggi finalmente rivediamo una buona giornata su Piazza Affari, che guadagna l'1,26% sul FTSE MIB. Sono positive anche le altre piazze europee. Probabilmente oggi al mercato piacciono due indicatori macroeconomici che sono stati diffusi proprio poco fa. Intanto l'indice PMI manifatturiero europeo, che è salito a 57 punti a maggio, è una statistica molto importante. Questo indicatore è al top da 6 anni e magari fra un po' lo commenteremo anche con il nostro ospite. Poi è stato rivisto a rialzo il PIL italiano del primo trimestre, che ha fatto questo balzo enorme a più 0,4% da più 0,2%. Ci accontentiamo veramente dei decimali, ma forse il mercato italiano oggi guarda anche a questo così, indicatore. Così abbiamo accontentato anche Claudio Di Brescia. Cosa dai, dissi che si lamentava? Sì, e la borsa, niente, esatto. Eccola. Chissà se questi dati piacciono a Francesco Sandrini, Head of Multi-Asset Security Solution di Pioneer Investment. Dico la sua carica solo una volta, dopodiché la traduciamo in italiano per perfetta, i nostri ascoltatori. Detto, era perfetta. Non ho detto non ho aspirato a sufficienza l'H di Head. No, anche con un inglese impeccabile, ottimo. Va bene. Allora, le piacciono questi dati di stamattina? Sì, mi piacciono. Sono dati che parlano a livello italiano e a livello europeo di una indubbia ripresa ciclica, che è stato anche molto aiutata dallo stimolo monetario, dallo stimolo fiscale di altri paesi come la Cina, che chiaramente ha supportato negli ultimi mesi moltissimo il commercio globale, quindi questo aiuta le esportazioni. C'è indubbiamente in Europa una ventata di ripresa ciclica molto forte. Bisogna essere contenti, giustamente, esatto, guardare perché questo. A qualcuno piace magari enfatizzare questo nuovo trend, qualcuno invece ancora dice insomma procediamo con cautela perché le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Sì, bisogna sempre guardare il doppio lato delle cose. Quando enfatizzavo la bontà di una ripresa ciclica, bisogna anche essere giustamente preoccupati per problemi di tipo strutturale che l'Europa ha tuttora, o meglio, quando di solito ci focalizziamo sul ciclo dobbiamo anche ricordarci che c'è un trend di crescita dell'economia economie, che dipende molto dalle riforme, dalla produttività, e che ci dà fondamentalmente una buonissima indicazione di quanto questa ripresa ciclica possa poi essere duratura. Era una domanda prevista nella nostra scaletta: quali sono i potenziali fattori di disturbo dall'andamento dei mercati? Ci arriviamo fra qualche istante. Intanto, prima cosa, naturalmente diamo sempre la nostra disponibilità ai nostri ascoltatori ad intervenire all'800 24 00 24. Ci piacerebbe sapere da voi quali sono i temi che attirano la vostra attenzione in questa fase. State magari pensando, proprio alla luce delle tematiche macroeconomiche, ad una riorganizzazione strategica dei vostri investimenti? Insomma, che scelte state valutando di fare con il vostro consulente? Raccontatecelo, se lo volete, al numero verde oppure al 349 238 6666. Però, Sandrini, partiamo proprio da questo nuovo caso Italia, anche perché non sono pochi i risparmiatori italiani che seguono con particolare attenzione le vicende del nostro paese, intanto perché c'è ancora molto risparmio, per fortuna. Molto di questo risparmio è concentrato proprio sul mercato domestico. Ci sono tanti imprenditori che hanno anche una concentrazione del rischio di impresa nel nostro paese, che fanno un po' di fatica a diversificare sui mercati finanziari internazionali, e quindi le vicende politiche, per quanto a volte quelle italiane sembrino a dir poco surreali, no, ci interessano tutti. Allora, perché il dibattito sulla nuova legge elettorale è così importante per il signor Mario Rossi, risparmiatore? Beh, perché sicuramente il dibattito sulla legge elettorale ci parla di stabilità. L'Italia è un paese, come ha sottolineato anche Visco ieri, che ha bisogno di riforme. Sono state iniziate le riforme, bisogna sempre guardare il lato positivo delle cose, però le riforme devono essere portate avanti. Abbiamo ridotto di molto il costo del lavoro, queste sono tutte misure che aumentano la produttività e che quindi possono mantenere tassi di crescita un pochino più alti di quelli che diceva lei, che sono tutto sommato cose su cui siamo felici, ma stiamo parlando del passaggio dallo 0,2 direi allo 0,4. Insoddisfacente, giusto. Certo. E quindi la legge elettorale viene vista positivamente nel momento in cui è in grado di assicurare una continuità nell'azione di governo. Quello che chiaramente il mercato, se vogliamo toccare anche questo aspetto, oggi sconta, quello di cui noi abbiamo giustamente un po' di timore, è il fatto che, se mi consente di fare un parallelo tra la situazione francese preelettorale e quella italiana, per la Francia abbiamo visto un sostanziale allargamento degli spread contro la Germania prima delle elezioni, poi l'annuncio di Macron e tutto sommato una maggioranza che avrà abbastanza sostenuta ha contribuito a ridurre il costo del debito francese. Questa cosa qua non è molto accaduta per l'Italia. L'Italia tuttora ha uno spread del BTP decennale contro il titolo tedesco, il Bund, di circa 190-185 punti base, proprio perché il timore di tanti è che adesso l'ottica della speculazione possa accanirsi contro... Però ci sono state delle situazioni un po' confliggenti negli ultimi giorni, perché è vero sì che lo spread si è allargato, però se andiamo a vedere come si sono chiuse le aste che il Ministero dell'Economia ha proposto proprio negli ultimi giorni, in realtà abbiamo avuto rendimenti di nuovo in discesa. Per il BOT a 6 mesi abbiamo toccato un nuovo record negativo, -0,3580% nell'asta di lunedì scorso, e sono di nuovo scesi rendimenti anche dei titoli a più lunga scadenza. Per il BTP a 5 anni il collocamento è avvenuto allo 0,88%, nell'ultima asta avevamo ancora un rendimento superiore al punto percentuale. Per il BTP a 10 anni, che stamattina è intorno al 2,20, abbiamo avuto appunto un collocamento al 2,15. Indubbiamente, Deborah, questo trend esiste, c'è un trend per la riduzione dei tassi di interesse generalizzato, non è solo un trend italiano ma europeo. Ed è un trend che stiamo vedendo anche negli Stati Uniti, purtroppo, da qualche mese. E questo, se vogliamo, è il contraltare dei dati di inflazione che stanno via via uscendo. Abbiamo visto numeri, tutto sommato, dopo gli ultimi due trimestri dell'anno precedente, di inflazione che si è stabilizzata e che inizia anche a mostrare segni di non resilienza. Guardiamo anche con grande attenzione l'inflazione salariale, che ci dà un'indicazione molto forte di come questa inflazione possa essere sostenuta e trasformarsi poi in una ripresa dei consumi di tipo ciclico. E non abbiamo buonissime informazioni, perché questa inflazione salariale sembra molto limitata anche negli Stati Uniti, dove ha fatto alcuni passi. E questo è il motivo per cui noi non parliamo di inflazione nel nostro paese, bensì di reflazione, inflazione resiliente, vorrei quasi dire, no? Qual è questo nuovo concetto e perché è importante che i nostri amici risparmiatori lo conoscano bene? Beh, perché indubbiamente l'inflazione è data da una variazione, noi di solito osserviamo la variazione annuale di un paniere di prezzi e servizi, quindi dentro ci troviamo cose con uno spettro piuttosto ampio, dagli affitti fino al costo dei servizi, la sanità, e anche cose tutto sommato più legate a quelle che definiamo le materie prime, quindi l'energia, il cibo. Cosa abbiamo visto sostanzialmente nella seconda parte dell'anno scorso? Abbiamo visto una ripartenza, una reflazione di questo indice, principalmente legata da componenti che sono legate all'energia, al prezzo del petrolio, e dobbiamo dire che c'è stato un effetto di base molto forte anno su anno, perché ha chiuso l'anno il petrolio a un livello sostanzialmente più alto di quello di un anno prima. Ora, il petrolio non ci sta dando segnali di direzionalità molto forte, abbiamo visto una correzione negli ultimi giorni legata a 48-50 dollari il range, legata probabilmente al fatto che l'annuncio dell'OPEC ha un po' preso il mercato dal punto di vista di essere troppo conservativo, cioè ci si aspettava forse tagli di tipo superiore. In mancanza di questo stimolo dei tetti produttivi, insomma, della produzione, sì, esattamente. Per gli ascoltatori. In mancanza di questo stimolo dell'energia, non abbiamo visto partire o ampliarsi ulteriormente l'inflazione invece da servizi, l'inflazione da affitti, se non in maniera. Che è quella che ci racconta che la ripresa economica sta avvenendo su basi un po' più consistenti, no? Esattamente, esattamente. Allora, 800 24 00 24, vedo già degli ascoltatori pronti ad intervenire, vorrebbero raccontarci come sono posizionati in questo momento sul mercato e quindi chiedere a lei così un po' un occhio di riguardo per le loro scelte. Fra un po' sentiremo se Marco è d'accordo, Franco da Bologna. Intanto sono già le 11:29:30, allora torno a raccontarvi con qualche dettaglio in più cosa succede in borsa questa mattina, poi ritorneremo con Francesco Sandrini di Pioneer a commentare i temi di mercato con un focus di nuovo su questi benedetti Stati Uniti, dove naturalmente c'è sempre Trump che fa parlare molto di sé, ma la borsa continua a marciare molto forte e quindi un tema molto caldo, molto interessante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Investi con Anima, il gruppo leader del risparmio gestito italiano. Cuore e denari. Allora, stanno arrivando veramente tante osservazioni questa mattina dai nostri ascoltatori che vogliono partecipare ad Investire Informati. 800 24 00 24 è il numero verde per poterlo fare. Il nostro interlocutore di oggi è Francesco Sandrini, responsabile delle soluzioni multi-asset di Pioneer Investment. L'ho tradotta. Perfetto. Non mi sono potuta trattenere. Allora, abbiamo commentato la questione italiana, il nervosismo che abbiamo visto sui mercati negli ultimi giorni, che in realtà poi si è trasmesso relativamente al mercato obbligazionario, quello è forse il termometro ancora più importante da valutare. Si è allargato lo spread, ma i rendimenti dei titoli di Stato collocati in asta in realtà hanno continuato a manifestare rendimenti in discesa, quindi segno che forse anche tra gli investitori non sanno bene che posizione prendere rispetto a questa possibile crisi politica del nostro paese o comunque queste elezioni anticipate. Su questo tema ci sono alcune domande degli ascoltatori che adesso prenderemo. Direi che li prendiamo subito, ma certo. Ci piacciono. Renato dalla provincia di Milano, così siamo coerenti con le considerazioni che stavamo facendo fino ad ora. Benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Buongiorno. La domanda mia è, in questo momento si sta parlando di elezioni anticipate e di caduta del governo. Sì. Che impatto può avere su noi piccoli risparmiatori? Allora, intanto magari ricordando un po', facendo un parallelismo con le crisi potentissime del passato, quando abbiamo avuto lo spread a 570 punti base, oggi intanto, come dire, la situazione di partenza è diversa, no, Sandrini? Il tema fondamentale è forse questa rete di protezione della Banca Centrale Europea, che magari un piccolo risparmiatore non vede, ma il suo effetto assolutamente lo fa. No, grazie per la domanda di Renato, è estremamente importante la tempistica, come dicevi tu, Deborah. Il punto è, se una crisi di governo avviene ora, avviene in un contesto tutto sommato di paracadute e di protezione da parte della Banca Centrale Europea. Questo paracadute andrà via via alleviandosi probabilmente dalla fine di quest'anno per la prima parte del 2018, quindi assisteremo verosimilmente a un rallentamento degli acquisti e poi pian piano si discuterà dell'aumento dei tassi di deposito. Tutto sommato oggi siamo protetti, se noi prendiamo il 100% dei BTP in circolazione in questo momento, una larghissima parte è detenuto tra banche che partecipano alle politiche monetarie della Banca Centrale Europea, agli istituti della Banca Centrale Europea stessa, ai risparmiatori italiani. Quindi se vogliamo, negli ultimi anni la quota di BTP che sono detenuti da investitori esteri, che quindi potrebbero essere innervositi da se cominciano a vendere loro, chiaramente questo è il problema. Più questo ombrello è esistente, più chiaramente una crisi di governo viene in parte sterilizzata sugli effetti. Comunque ci sarebbero effetti indubbiamente di allargamento dello spread, questo è bene dirlo. Quello che magari può temere un piccolo risparmiatore è di nuovo una revisione, per esempio, per la politica fiscale del risparmio, ma sono già intervenuti diverse volte ultimamente, andare ancora una volta a caricare di ulteriore fiscalità. Diciamo che nessun governo penso si possa prendere nuovamente questa responsabilità. Ma detto questo, c'è anche una questione, sa Deborah, di efficacia relativa di questo tipo di misure, perché se noti sui titoli di Stato abbiamo una disciplina agevolata attorno al 12,5%, mentre sono 26 per quello che riguarda gli strumenti finanziari alternativi. E dobbiamo ricordarci che la stragrande maggioranza dei risparmi delle famiglie italiane è tra liquidità e titoli di Stato e l'immobiliare, certo. Quindi non è molto d'impatto questo tipo di misura. Una crisi di governo, insomma, sul piccolo risparmiatore magari potrà avere un impatto limitato, e che l'incertezza politica frena un po' invece gli investimenti che possono arrivare verso il nostro paese da investitori internazionali sotto altre forme. Io ne parlavo proprio in questi giorni con un mio amico di New York che è qua in Italia e che continua a dire: io ho tanti clienti potenziali che magari vorrebbero comprarsi un bel casale in Toscana piuttosto che altro, ma che sono proprio frenati dall'indecisione legislativa massima che per esempio sulla casa negli ultimi anni è intervenuta diverse volte. Esattamente, quando prima, Deborah, facevamo il parallelo tra ripresa ciclica in dubbio e carenze ancora di tipo strutturale sulla crescita, parliamo proprio di queste cose qui. Si parla di solito sempre di infrastrutture, di riforme, ma tante delle riforme sono sullo snellimento burocratico, e quello che tu stai dicendo è chiaramente legato a questo. Stiamo affrontando, come dire, gli aspetti problematici di questa situazione, ma secondo lei, secondo te, Francesco, sì, ormai siamo ripartiti con il tu, mi viene anche un po' da sorridere. Quali sono i temi di investimento da cavalcare quando il quadro politico di riferimento è incerto? Beh, sono chiaramente, questa è una buonissima domanda, perché di solito quando il quadro politico di riferimento è incerto è dove esistono le opportunità. In un mercato che è sempre cresciuto per gli ultimi anni per effetto di politiche monetarie ultra espansive, il rischio è che tutto sia caro. Dov'è che troviamo le aree meno care? Le troviamo in presenza di situazioni di incertezza. Se mi consenti di fare un esempio pratico per capire, se andiamo nel mondo dei mercati emergenti, dove per antonomasia troviamo sempre le situazioni politiche più disastrate. In questi giorni poi se ne sono ripresentate due o tre all'appello. Il Brasile, esatto, il Venezuela. Però il punto è proprio questo: se tu prendi i due paesi che hanno goduto, se vogliamo, di una ripresa macroeconomica un pochino più stabile, stabilizzata, la Russia e il Brasile, offrono ancora delle opportunità di reddito, quindi di trovare titoli con un buon rendimento, però chiaramente hanno poche possibilità di apprezzamento anche delle loro valute. Se tu vai sull'altro spettro dei paesi con alte possibilità di rendimento, che però per motivi legati all'incertezza, se vogliamo, di varia natura, chiamiamola geopolitica in termini più laschi, lì trovi ancora occasioni di riapprezzamento delle valute. Parlo del Messico, parlo della Turchia principalmente, parlo del Sudafrica. È chiaro che niente oggi avviene senza rischio, però quando c'è un'incertezza politica, anche se vogliamo, sono le condizioni dove di solito sì, quello che facciamo professionalmente, capire esatto, l'area di però crescita. È bene che lo facciate voi, ecco, magari un piccolo risparmiatore è bene che si approcci a queste opportunità di investimento, che tali sono, con gradualità, cautela, magari delegando ad un professionista queste scelte. Allora, vorrei anticipare il domandone questa mattina, perché siccome li faccio studiare un po' oggi, no, gli ascoltatori, allora vorrei dare loro un po' più di tempo. Ce l'abbiamo la sigla pronta? C'è. Tu sempre, tutti. tutto pronto. Tutto pronto qua, i nostri amici in regia non si lasciano mai cogliere di sorpresa. Allora, Francesco Sandrini vi ha spiegato molto bene all'inizio del programma che cos'è la reflazione. E siccome sarà un po' come lo spread, come i subprime, ci sono ogni tanto dei termini che improvvisamente compaiono sui giornali. Diventano con i quali, poi dei tormentoni. Esatto, con i quali ci dobbiamo andare a pranzo e cena insieme. Allora, se l'avete capita, raccontatecela all'800240024. Tanto so che barate che andate a vedere su Wikipedia. Ma è bello anche, almeno... Almeno si vanno a informare. Brava, esatto, una definizione una veloce, insomma, di reflazione. E se volete guadagnarvi i nostri libri, ne abbiamo un sacco. Peraltro ieri Nicole Ramella dall'ufficio stampa delle Sole ce ne ha portati un sacco, per cui abbiamo un po' di cosine interessanti da redistribuire ai nostri ascoltatori. Allora andiamo a Franco da Bologna. Franco, benvenuto. Buongiorno carissima signora, insieme a Nicoletta siete la coppia più forte d'Europa. Ma grazie Franco. Attenzione, non la coppia più bella del mondo, più forte d'Europa. Più forte anche di bellezza. Ma non dire è un caso Franco. Che Franco abbia detto, abbia specificato d'Europa, Franco, perché? Vero? Perché a lei le piace proprio l'Europa. Ma il mio consulente, come avevo detto a Pietralino, io avendo un fondo americano che mi dà più 39% e uno europeo che mi dà il 20%. Tanto complimenti a questo consulente che le dà così tante soddisfazioni, no? Perché sai, Franco? Sì, sì, l'ho ringraziato stamattina, però mi ha detto che col 1° di dicembre va in pensione. Ah, e quindi insomma vorrebbe spostare, vorrebbe riorganizzarsi. Francesco, cosa vuole fare? Sì, perché... mi hanno detto che l'America è ferma, invece l'Europa corre. Allora chiedevo all'esperto se anche lui mi dice di spostarmi un po' sull'Europa. Allora Franco, sì, allora diciamo che qua, dati i risultati, uno dice potrebbe anche accontentarsi e portare un po' a casa, no? Un po' di risultato. Però ha fatto un ragionamento corretto il suo consulente? No, assolutamente sì, sono d'accordo col consulente di Franco. E tra l'altro mi dà anche l'opportunità di chiarirvi come siamo posizionati, perché stiamo facendo di fatto le stesse cose. Gli Stati Uniti, la borsa americana si trova vicino ai suoi massimi storici, ha delle valutazioni tutto sommato un pochino tirate proprio per questo, non la vediamo a rischio imminente di correzione, e di solito noi utilizziamo degli indicatori che sono quanti titoli stanno sorreggendo la performance, la ripresa di un mercato. E quando andiamo a vedere dentro il Nasdaq o lo Standard & Poor's, che sono gli indici più famosi, che sicuramente conoscete, esatto, il mercato è mosso da 5-6 titoli nel Nasdaq, da una decina nello Standard & Poor's. Quindi noi guardiamo molto l'ampiezza di queste riprese. Quindi sicuramente c'è questo fattore che non è ancora ai massimi di concentrazione storica, e abbiamo ancora una salita degli utili che crescono in maniera superiore rispetto ai prezzi. Questa di solito è una garanzia, anche in presenza di mercati un po' tirati sulle valutazioni, che la performance possa continuare. Detto questo, parliamo di una performance tutto sommato, quindi di un rendimento da qui a fine anno tutto sommato molto limitato da questi livelli. Gli Stati Uniti hanno già corso molto. Dall'altro canto l'Europa è partita più tardi, è partita da un sistema di sottodetenzione, se vogliamo, di tanti investitori istituzionali. Una parte di questo gap si è chiuso, e quindi avete visto l'Europa performare meglio degli Stati Uniti negli ultimi 3-4 mesi. Tuttavia, di solito questi trend sono duraturi. Noi di solito osserviamo i flussi di entrata in questi mercati, e sono situazioni che rimangono attive per 7-8 mesi. Per cui sull'Europa, secondo me, è lecito aspettarsi un livello di rendimento, di performance superiore rispetto agli Stati Uniti. Inizia a essere un mercato meno economico di qualche mese fa, però c'è una ripresa ciclica indubbia, superiore rispetto a quella degli Stati Uniti in questo momento, e un favore di investitori stranieri, principalmente americani, che erano più scarichi. E magari insomma la scusa che i mercati potranno prendere tra qualche mese sono proprio le difficoltà che avrà Trump nell'implementare tutte le sue promesse elettorali, saranno appunto scuse, perché un conto è come sta andando Corporate America, un conto è quello che fa lui. Detto ciò, è il presidente degli Stati Uniti, quindi le aziende guardano anche all'operato del proprio presidente. Ci fermiamo, c'è il traffico, tra poco. Cuore e denari. È Via qua il quizzettone, ci sta un'altra volta. Allora, parola difficile oggi, la reflazione. L'abbiamo spiegata ad inizio trasmissione, avete capito che cos'è? Se lo avete ben compreso, fateci un veloce riassunto della puntata precedente, in realtà dalla prima parte, all'800240024. Noi siamo pronte con Nicoletta naturalmente a premiarvi per l'impegno profuso per studiare i temi finanziari. Allora, Trump, Stati Uniti, borsa americana con valutazioni un po' tirate e un imminente nuovo aumento dei tassi di interesse a metà giugno da parte della Banca Centrale Americana. Come ci si deve preparare a questo appuntamento già largamente preannunciato? Quanti altri aumenti secondo te, Francesco, ci saranno da qui alla fine dell'anno? E anche questo perché il signor Mario Rossi, risparmiatore, deve guardare anche a quello che fa la Banca Centrale Americana oltre che quella europea. Beh, se partiamo dall'ultima domanda, perché la Banca Centrale Americana è indubbiamente la più influente entità su questo pianeta e chiaramente giudicare il passo dell'incremento di questi tassi di interesse avrà un impatto importantissimo su mercati che appaiono un pochino tirati, se vogliamo, dopo anni di quantitative easing, quindi dopo anni di espansione monetaria a oltranza. Mi viene in mente il mercato delle obbligazioni governative, ma mi viene in mente tutto il comparto più ampio del credito, dai titoli investment grade fino ai titoli high yield e anche ai titoli obbligazionari emerging market, che ruotano molto attorno ai tassi di interesse americano e in generale al valore del dollaro. Quindi sicuramente è l'entità primaria da guardare dal punto di vista monetario. Cosa farà? Quello è un po' il puzzle di tutti. Noi abbiamo una visione come società di due rialzi da qui a fine anno, quindi un rialzo molto graduale. Successivi a quello di giugno, no, o comprensivo? Di quello di giugno. E la cosa importante secondo me da notare è come il mercato creda poco a questo rialzo della Fed. Il mercato è ancora un mercato che vede flussi di entrata nel credito, vede flussi di entrata nei titoli obbligazionari governativi americani. Perché crede poco? Perché i dati di inflazione che di solito guidano i rialzi dei tassi sono più deboli di quelli che sarebbe legittimo aspettarsi in questa fase del ciclo economico. Quindi assolutamente una variabile da guardare. È verosimile pensare che difficilmente si faranno passi più lunghi della gamba, cioè rialzando i tassi più velocemente di quello che... Invece l'euro-dollaro su questi valori, in questo rapporto a 1,12, che cosa ci racconta, cosa ci esprime? Beh, ci racconta principalmente una forza dell'euro in questa fase, flussi in entrata, come diceva Franco prima, sulle azioni europee, ma anche sulle obbligazioni, una volta stabilizzato, se vogliamo, il rischio geopolitico. Ci racconta un'entità, l'Europa, in avanzo di bilancio dei pagamenti, con un forte surplus commerciale, cioè una serie di fondamentali di robustezza dell'euro. Contemporaneamente ci racconta, perché è una variabile importante per giudicare l'andamento dei tassi di cambio, anche i differenziali, sono i differenziali di tassi di interesse, ci racconta anche di una Fed che da qualche mese fa, appena Trump fu nominato, ci si aspettava che avrebbe rialzato i tassi con un vigore un pochino superiore, tutto sommato tergiversato. Invece va con grande cautela. Allora, 800 24 00 24 per intervenire, commentare con noi i temi finanziari, raccontarci che scelte di investimento state facendo in questo momento e soprattutto rispondere al quizzettone se avete capito che cos'è la reflazione. Per tutto questo appunto c'è il numero verde disponibile per voi. Ci sono già tante candidature. Ci sono tante candidature, bravissime. Noi premiamo tutti, ma prima tocca però a Enrico. Oggi Bologna ci ascolta. Città magnifica. Esatto. Non avranno capito il mio accento, probabilmente. Sa che lo volevo dire, dico però... allora, uno era il cugino di Francesco, uno era un cugino di secondo grado, parenti, tutti i parenti. Che ho preallertato. Enrico, benvenuto. Sì, grazie, buongiorno. Sì. Senta, no, io volevo chiedere una cosa. In questo momento si legge un po' dappertutto di questi big data, investimenti in big data, di potenzialità di importi che spenderanno le aziende nei prossimi anni in questo settore. Il vostro esperto ha qualche consiglio di investimento in questo senso? Perché è un settore in grandissima espansione. Allora, intanto che non li dia i consigli di investimento, perché sennò poi fanno le scelte, insieme ad Enrico replicano tutti, poi fanno dei danni e danno la colpa a noi. Per cui cautela anche nell'esprimere consigli. Ho anche un conflitto di interesse a non poterli, non poter scendere a livello di titoli. sicuramente il tema esiste. Di che tipo di settore sta parlando, Enrico? I big data, cioè la disponibilità di dati su frequenze molto più alte, che siano raccolti da social media come Facebook, LinkedIn, ha un impatto, oppure anche da telecamere o rilevatori, pensate ai tutor, pensate, sono mille le fonti di tecnologia. Tu pensa che oggi questo è un settore su cui investire anche? Ha un impatto distruttivo sulle tecnologie esistenti, perché chiaramente ci dà la possibilità di andare a, per esempio, fatemi fare un esempio. Per andare a fare campagne commerciali molto più mirate. Probabilmente a chi di voi ha un account Facebook sarà capitato di ricevere una pubblicità. Devo aver fatto qualche danno in questi giorni, perché da 3 o 4 giorni a questa parte ricevo una mole di pubblicità che non si era mai verificata prima, per cui devo aver inserito la mia mail da qualche parte, adesso non me lo ricordo, per cui questo è un po' il tema. Vi dico solo magari un esempio che vi aiuta a capire big data. Ho avuto un problema di piccioni nel terrazzo. Sentiamo dove arriva. Riuscivo a mandarli via. E ho scritto cercato ad alcuni informazioni amici su un post Facebook. Accidenti, ho piccioni nel terrazzo. 2 minuti dopo ho iniziato a vedere nel mio account Facebook la pubblicità di società specializzate. Non ci posso credere. Ci sono filtri che sono in grado, e oggi in maniera automatica, di ottenere queste informazioni e trasformarle in campagne commerciali mirate. Questo è vero per tutti i settori, quindi senza scendere nei titoli, è chiaro, nei titoli specifici azionari da comprare, è chiaro che questa, come altre innovazioni tecnologiche, hanno impatto fortissimo in questo momento sui grossi temi di investimento, non da qui a dopodomani naturalmente, ma chiaramente altereranno completamente l'equilibrio settoriale. Allora, noi i stiamo andando nel tempo, li allontanati sono riuscito anche a liberarmi della pubblicità. Vabbè. Mamma mia. Paolo dalla provincia di Brescia si candida, è caduto, adesso lo recuperiamo. Allora, 2 minuti di tempo, volevo affrontare il tema cinese dopo il taglio di rating, il tema giapponese. Io lo so che sono aree lontanissime da noi, ma il Giappone in questo momento ci sta raccontando una cosa straordinaria, perché questi signori qua hanno una disoccupazione, Nicoletta, al 2,8%. Pensa tu, la produzione industriale, ieri è stato diffuso il dato, è salita del 4% ad aprile, è l'aumento maggiore dal 2011 dopo lo tsunami. Questi signori qua, insomma, stanno benissimo a quanto pare. Quanto pare, infatti. Ecco. No, il punto è ripresa ciclica meravigliosa, disoccupazione bassissima. E problemi strutturali, sapete che il Giappone è uno dei paesi al mondo con il tasso demografico più alto alto in assoluto. Il debito pubblico altissimo, un po' a livello. Ma un problema più interno, questo che se lo comprano tutto tra di loro. Però hanno un problema di fondo, hanno poca fiducia sul futuro, quindi pochi investimenti in questo momento. E notate, infatti i consumi delle famiglie continuano a scendere. Esattamente, anche perché stiamo parlando di famiglie sempre più anziane. E come fa a crescere la produzione industriale? Esportano, quindi non vendono all'interno. Quello che dicevamo prima, ricordiamoci che chi ha tirato la locomotiva, che ha tirato in maniera incredibile negli ultimi anni e mezzo, 2 anni, è la Cina. La Cina è una potenza regionale, quindi il Giappone, essendo un'economia molto manifatturiera, esposta all'esterno, gode molto più di altri di questa ripresa degli utili, di questa ripresa manifatturiera. La Cina merita una puntata tutta a sé, devo chiamare lei, Monica De Te, Francesco e Monica De Fende, che è l'altra vostra grande esperta appunto dell'ufficio studi di Pioneer. Paolo da Brescia, velocissimo, grazie. Salve, buongiorno, io avevo semplicemente chiamato per rispondere a quella domanda che avete fatto. Cos'è la reflazione? Esatto. Cos'è? Da quel che ne so io è dopo un periodo di deflazione è un piccolo aumento dell'inflazione. È quello che si è verificato, bravo Paolo, quello che si è verificato proprio in tempi recenti. Vedremo quindi se si trasformerà in inflazione strutturale, che denota anche ripresa solida dell'economia, o sarà un fuoco di paglia. Grazie a Francesco Sandrini per essere stato con noi, una gran bella puntata, ritengo, molto modestamente, come sempre quelle che facciamo, Nicoletta. L'umiltà, diciamo, non è proprio una nostra caratteristica, ma insomma, quando abbiamo dei bravi ospiti ci piace sottolinearlo, soprattutto quando sono molto molto chiari, come sei stato tu. Grazie mille. Stamattina noi torniamo domani e saremo in diretta dal Festival dell'Economia di Trento, venite con noi, buona giornata.